4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Ancora una volta buonasera amici dei motori, bentornati allo spazio motori di Radio 24 in collaborazione con Quattro Ruote. Due indirizzi subito e iniziamo con una puntata ricchissima di contenuti. Allora, www.radio24.it è il sito di riferimento nella sezione programmi, il quarto o quinto programma in ordine alfabetico, visto che al numero davanti è il nostro, Quattro Ruote e dintorni. Dentro c'è tutto l'archivio storico della trasmissione, le auto che abbiamo provato con gli amici di Quattro Ruote e da questo weekend una rubrica che tanti anni fa avevamo iniziato con un giornalista, un collega in moto, ora la proviamo a fare in macchina, cioè un weekend su quattro ruote. Andate a scoprirla, ve ne parlo più tardi. Intanto diamo il buona serata a Marco Perucca di Quattro Ruote. Ciao Marco. Ciao Roberto e buonasera a tutti i radioascoltatori. Anche Marco conosce la nostra email, è il secondo indirizzo, 4ruote@radio24.it, a cui arrivano molte domande che spesso giro proprio agli amici esperti. Parleremo con Marco della Honda Insight, la prova di oggi, poi sentiremo l'amministratore delegato della Kia Motors Italia, perché la Soul ha una novità importante, arriva in versione GPL, e Roberto Boni, un altro giornalista esperto di motori, ci insegnerà a guidare risparmiando un po' di benzina. Sarà Cosimo Muriani a farci la differenza fra omologazione e immatricolazione di un Euro 4, Euro 5, e l'avvocato Lievore chiuderà con i consueti consigli sul codice della strada. Ce n'è per tutti i gusti. Marco Perucca, che tipo di auto è la Honda Insight? Beh, è un'auto sicuramente fuori dagli schemi comuni, molto interessante, e che può sicuramente essere una valida alternativa alle altre offerte del mercato nel segmento C. Segmento C, questa è la prima definizione. Nel sommario io ho citato la Toyota Prius. Tu accetti questo confronto Insight contro Prius oppure no? Sì, certamente l'altra auto di riferimento in questa categoria è la Toyota Prius, però devo dire che la Insight può essere confrontata tranquillamente con un'auto tipo, non so, la Golf, la Bravo, la Megane, perché in tutto e per tutto è un'auto assolutamente normale, però ibrida, quindi con tutto quello che concerne in questa soluzione. Molto bene, noi scopriremo tra poco l'andamento di quest'auto. Prima però vogliamo conoscerla attraverso i dati principali che ci suggerisce la nostra scheda. Il futuro è già qui. Questa vettura monta ben due motori, uno elettrico e uno a benzina, oltre che a un computer che insegna a guidare in modo più attento, inquinando meno. Dalle prove di consumo, il risparmio di carburante si attesta attorno al 30% e il prezzo è davvero molto interessante. Nome: Honda Insight Executive iPilot. Carrozzeria: 5 porte, 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,39 m, larghezza 1,69 m. Motore termico: anteriore trasversale, benzina a 4 cilindri, cilindrata 1339 cc, potenza 88 cavalli. Motore elettrico: trifase con magneti permanenti, alimentazione con batterie al nickel metal idrato, potenza 13,6 cavalli. Trasmissione: trazione anteriore, cambio automatico CVT a controllo elettronico con possibile utilizzo manuale sequenziale a 7 marce. Prezzo 23.451 euro. Allora, queste erano le caratteristiche principali, vediamo di descriverla per filo e per segno questa Honda Insight, Marco. Sì, allora, innanzitutto com'è fatta un'auto ibrida come questa? In pratica dispone di due motori, un piccolo motore a benzina di 1300 centimetri cubi e un altrettanto piccolo motore elettrico, molto molto compatto, pensate, spesso solo 3,5 cm, che è calettato assieme al motore a benzina, e questo motore elettrico eroga 13,6 cavalli. Cosa succede? Poi c'è un computer che gestisce e definisce quando i due motori devono lavorare assieme, quando va solo quello a benzina, quando quello elettrico si trasforma in generatore, quindi questo accade ogni volta che si rilascia l'acceleratore e si frena, e va a ricaricare le batterie. In questo modo guidate in modo attento. E un'altra cosa interessante che ha l'Insight, ed è una novità, proprio un quadrino di bordo che indica, suggerisce al guidatore come utilizzarla al meglio, e in questo modo noi abbiamo visto che si riesce a risparmiare dal 20 al 30% rispetto a un'auto benzina tradizionale. E non è poco per le nostre tasche, per i nostri portafogli, ne parleremo anche dopo con il collega Boni. Senti, la via sarà quella elettrica, lo abbiamo detto l'altra volta parlando di emissioni zero, il vostro allegato gratuito al giornale, e allora io ti chiedo, la Prius e la Insight sono davvero il ponte verso il futuro che arriva nell'auto? Ma sì, sicuramente sono soluzioni interessanti e che possono, diciamo, potranno in un futuro sfociare in una soluzione più, diciamo, più elettrica o totalmente elettrica, almeno direi per un uso cittadino urbano, questa potrebbe essere la soluzione per il futuro, mentre potrebbero rimanere più o meno in questa veste per l'uso extraurbano e diciamo da viaggio, di servizio che fa attualmente un'auto a 360 gradi. Ecco. Decisamente, allora sentiamo la pagella che dà i voti a questa Honda Insight. Posto guida, inaspettatamente sportivo, con piano di seduta basso e volante quasi verticale, regolabile in altezza e profondità. Sedile ben profilato, giustamente rigido, confortevole anche dopo molte ore di guida. Ampie regolazioni, voto 4 stelle e mezzo. Finitura, l'Insight è un'auto ben costruita e a bordo ci si trova subito bene. L'ambiente è piacevole e c'è attenzione per i particolari. I materiali sono di buona qualità, ben realizzata soprattutto la selleria. Curato il vano bagagli, voto 4 stelle e mezzo. Comfort, il 4 cilindri è quasi inavvertibile nell'uso normale, l'elettronico poi è come non averlo. In autostrada prevale il rumore dei pneumatici, pochi fruscii aerodinamici, solo in piena accelerazione il rumore diventa fastidioso, voto 4 stelle e mezzo. Motore, o meglio motori, il benzina eroga 88 cavalli ed è molto regolare, gradisce poco gli alti regimi, ma è estremamente parco nei consumi. Quello elettrico ne ha altri 14 che si aggiungono a quelli del benzina. Voto 4 stelle. Su strada, comportamento sottosterzante. L'Insight risente parecchio dei trasferimenti di carico che possono provocare variazioni d'assetto da sotto a sovrasterzante, controllate in ogni caso dall'elettronica. Bene sul bagnato. Voto 3 stelle e mezzo. Ecco, e dopo aver dato i voti a questa Honda Insight, chiedo a Marco Perucca, mi ha stuzzicato quel computerino che hai citato. Ci racconti esattamente come funziona, come fa a darci consigli per la guida? Beh, intanto l'ambiente è abbastanza particolare perché c'è questa strumentazione diversa da quella che siamo abituati a trovare sulle auto comuni, che gioca anche sui colori. Proprio il colore del tachimetro cambia dal verde all'azzurro fino al blu intenso a seconda di come si stanno utilizzando e si sta agendo, diciamo, sul pedale dell'acceleratore, ed è quindi proprio un invito ad viaggiare sempre con questo sfondo verde, più possibile verde. In più c'è anche, ovviamente girando nei vari menu del computer di bordo, si trovano i consumi fatti dopo le ultime accensioni, e c'è anche, questo è simpatico, una serie di alberelli stilizzati che fioriscono o appassiscono a seconda di come si sta guidando. Questo proprio a incitamento alla guida ecologica. Alla fine diventa quasi una sfida cercare di consumare poco e inquinare ancora meno. Ecco. Decisamente. Grazie davvero per questa prova che poi troverete su Quattro Ruote in maniera ovviamente più completa con tutti i dati e le rilevazioni del caso. Marco Perucca, a presto e buona serata. Arrivederci radioascoltatori, ciao Roberto. Quattro ruote e dintorni. Dunque, dicevamo di iniziare questo blocco di trasmissione con la Kia. Vorrei salutare subito l'amministratore delegato di Kia Motors Italia, Giuseppe Bitti. Buonasera, dottor Bitti. Buonasera, buonasera a lei e a tutti i vostri ascoltatori. È stato nostro ospite qualche mese fa durante il lancio di quest'auto che è molto importante per la casa orientale, la Soul. La prova l'abbiamo già fatta, però oggi ci sono due notizie. Una riguarda noi e una riguarda voi. Protagonista è la Kia Soul, quindi ho ritenuto opportuno risentirla un attimo. Iniziamo poco cavallerescamente da Radio 24. Sul sito radio24.it sarà presente una volta al mese, se riesco a tenere questi ritmi, ce la metto tutta perché è stata una sfacchinata notevole, però la rubrica Weekend su quattro ruote è il tentativo che cerchiamo di fare qui a Radio 24 di provare un'auto in maniera diversa. È oggettivamente difficile, ormai in tutto il mondo insomma riuscire a inventare una prova di un'auto diversa è obiettivamente difficile, però siamo convinti di una cosa, che per giudicare un'auto non sia necessario guidarla in un percorso di 2 ore stabilito. Bisogna possederla, bisogna usarla, bisogna parcheggiarla, bisogna in qualche modo viverla. Questa è la filosofia che sta dietro questa prova. Bitti ci ha dato un'auto, una Kia Soul 1006 benzina bianca con interni pelle rossa meravigliosi, e siamo andati da Milano a Roma e ritorno da Roma a Grosseto, tutta la Toscana del Senese, e siamo tornati a Milano. La sua auto, Bitti, è invecchiata del 50% perché me l'ha data a 1500 km, gliel'ho portata a 3000 km, però sul web vedrà lei stesso il risultato. Allora, perché la sentiamo? Perché c'è una novità. Voi avevate presentato benzina e diesel, ora che cosa succede? Beh, diciamo che da questa settimana è iniziata la produzione, quindi la disponibilità presso le concessionarie della versione bifuel GPL. Questo direi che è molto importante perché è un completamento della gamma Soul che riflette poi quello che è un trend di mercato che è veramente molto molto considerevole. Teniamo conto che noi abbiamo iniziato l'avventura tra virgolette di produttori di seconda fase con l'omologazione della Picanto circa un anno e mezzo fa, poi abbiamo proseguito con la SID e poi con lo Sportage, e quindi attualmente se noi analizziamo la percentuale sugli ordini che i clienti fanno le nostre concessionarie delle versioni GPL sfiora il 70%, quindi è chiaro che anche per la Soul ci aspettiamo una grande richiesta. Devo dire che il primo feedback di mercato è sicuramente in questo senso, anche perché c'è un valore in più, sì, sulla Soul, nel senso che con la modifica GPL scende l'emissione di CO2, scende sotto i 140 grammi, per l'esattezza 135, e quindi in caso di vettura da rottamare c'è anche l'incentivo statale di rottamazione. Ecco, cerchiamo di fare un attimo il punto. Allora, stiamo parlando di un'auto che costa dai 15 ai 18 mila euro a seconda delle versioni. Attenzione, esatto, perché con l'impianto GPL arrivano 1500 euro di incentivo. Poi c'è un incentivo Kia disposto da voi, non so per quanto tempo, ma 1000 euro comunque definitivo per chiunque compri una Soul. Assolutamente. E se si rottamasse un'auto vecchia, siccome questa consuma anche poco, c'è un altro incentivo statale confermato dall'11 febbraio per legge di altri 1500 euro. Sono, esatto, 4000 euro su 18, vuol dire che quest'auto viene a costare 13.850 euro. Esattamente. Quindi credo che sia sicuramente qualcosa di un'offerta molto molto interessante su tutti i punti di vista, perché la Soul è un veicolo, è un crossover, è un concetto nuovo, quindi credo che con l'ulteriore anche motivazione ecologica credo che sia veramente un prodotto molto interessante. Mi dica una cosa, mi faccia fare anche il giornalista ovviamente con una domanda spinosa: in Europa è piaciuta tantissimo, ho letto di migliaia di ordini in 5 mesi, in Italia meno. Secondo lei questa, intanto le chiedo il motivo proprio di mercato, se è il momento oppure se può essere l'auto sbagliata in Italia. Ma mi sembra un po' strano dopo averla guidata per così tanto. Poi le chiedo se il GPL può risollevare questa questione. Riteniamo che il GPL sicuramente risolleverà, anche perché noi diciamo il risultato che noi abbiamo raccolto finora in termini di immatricolazione è dovuto al fatto che comunque gran parte della clientela italiana stava aspettando la versione GPL. Infatti sì, noi non eravamo e non siamo assolutamente preoccupati, perché noi comunque avevamo già informato la nostra rete, avevamo già detto in conferenza stampa in occasione della presentazione che la versione GPL sarebbe arrivata molto presto, quindi in realtà il flusso presso le nostre concessionarie è già stato molto molto buono, per cui noi sapevamo che molti clienti aspettavano la versione GPL. E poi bisogna tenere conto di una cosa, che la Soul comunque è una vettura che va vista, lei ha parlato prima di questo nuovo vostro approccio, diciamo, di fare delle prove, sì, lunghe e delle prove in cui si vive veramente la vettura, e la Soul deve essere vista concretamente, perché né le fotografie né i filmati rendono direi giustizia a un prodotto che poi ha delle dimensioni importanti, una grande abitabilità, ed è un prodotto che che va visto, va fatto vedere. Infatti il nostro sforzo di comunicazione in questo momento è proprio quello di cercare di mettere il più possibile vetture in circolazione, perché sì, poi la gente si ferma sempre. Lei avrà visto, parcheggiando la Soul, ci si trova sempre qualcuno che la guarda, ti guardano al semaforo, ti guardano tutti, perché è veramente una linea molto anticonvenzionale, quindi ammetto che va anche un po' assimilata. Certo, è quelle auto che alla prima ti fanno venire una smorfia, poi le guardi un po' meglio, la smorfia inizia a sbiadire, dopo 4 volte che la guardi oggettivamente sposta un pochino, no, quel senso del design che abbiamo. Era successo così per le linee, si ricorda, della BMW di Chris Bangle, quando aveva squadrato, esatto, accettato le auto, tutti subito, grande scandalo, furono un successo enorme. Ora si torna a schierarsi, da una parte le curve armoniose, dall'altra invece le squadrature, quindi questo sicuramente sì. Io sono anche contento per voi di questa notizia GPL, perché l'unico appunto grosso che lei leggerà sul nostro sito è che un'auto del genere, grazie al fatto che ha un 1.6 generoso, 126 cavalli, ma non pesa neanche tanto, è secondo me abbastanza grave che consumi, pensi, la percorrenza media che ho fatto io, anche se ancora in rodaggio, per carità, ma sono 11,5 km in un litro su 1.500 km fatti dalle autostrade, extraurbane e città. Il discorso GPL a questo punto potrebbe mettere a posto anche questo difettuccio. Molto bene, sì. Bitti, io la ringrazio, la invito anche lei a leggersi la prova della sua auto in realtà su radio24.it, sezione programmi, 4 ruote dintorni, da lunedì dovrebbe esserci, stiamo lavorando alacremente con il webmaster Valeria, che ringrazio sin da ora per farcela. Grazie Bitti, buona serata. Grazie a voi, buona serata a tutti. E passiamo adesso ad un argomento molto interessante, quello della possibilità di risparmiare, facendo bene al nostro portafoglio ma anche all'ambiente, guidando. È possibile, missione possibile, ce la insegna Roberto Boni da 4 ruote. Buonasera Roberto. Buonasera Roberto, un saluto a tutti gli ascoltatori. Mi fa piacere dare qualche consiglio proprio agli ascoltatori, Roberto, da parte tua, che sei un esperto di questo, ma anche perché hai seguito con i tuoi colleghi l'edizione Emissioni Zero di quest'anno, che vi ricordo, ne abbiamo parlato sabato scorso, ma ho il piacere di ridirlo, visto che è gratuito, allegato al mensile, invece a pagamento ovviamente, 4 ruote in edicola, Emissioni Zero. Si parla tanto di batterie, di litio, di elettrico e di GPL metano. Ecco, con Roberto ora ci concentriamo un po' sulla guida che si può tenere. Roberto, 2 o 3 grandi piccoli consigli per guidare risparmiando. Ma guarda, la prima cosa da dire io credo che sia quella di ragionare per i posti guida, perché spesso mi sembra che molti non lo facciano. Ti faccio un esempio molto banale: io quando vado in ufficio la mattina percorro una strada dritta con 3 corsie per senso di marcia e numerosi semafori che si vedono praticamente a distanza, sì, abbastanza da lontano, per cui uno vede se il semaforo che dovrà affrontare, a cui dovrà avvicinarsi, è rosso, verde o così via. Beh, io, come è giusto fare, me la prendo comoda, se vedo che è rosso lascio scorrere la macchina e rilascio, consumando quasi praticamente nulla in quel momento, e così riesco magari a ripartire a col verde senza dovermi fermare e tengo la marcia inserita e così via. Ci sono quelli invece che, pur di arrivare al semaforo diciamo in prima posizione, accelerano, mi superano, poi inchiodano e sono fermi, e poi regolarmente io li sfilo magari senza appunto modificare la mia andatura, andando, certo, a fare tranquillo. Ed è questa un po' la filosofia, diciamo, la filosofia di guida: guardare lontano, tenersi degli spazi magari tra la macchina davanti, in modo tale da non dover ogni momento frenare se lui rallenta e così via, ma fare un po' da elastico, che appunto consente di mantenere in pratica l'andatura il più costante possibile. Certo, tra l'altro quando parliamo di consumi non significa solo durante l'accelerazione, pensiamo un attimo ai consumi durante la frenata. Tu citavi le inchiodate al semaforo, beh, insomma le pastiglie costano, i dischi pure, il mantenimento, certo, del veicolo, certo, si impone su questo. Allora una domanda che ci fanno gli ascoltatori spesso, Roberto, a cui puoi rispondere tu, è: ma in scalata conviene inserire le marce e aiutarsi col freno motore, oppure si consuma di più? Non è un problema, perché ormai tutte le macchine in rilascio, cioè quando l'acceleratore è rilasciato, non consumano nulla, perché l'alimentazione viene disattivata, cioè il cut-off, e quindi in quel momento non si consuma nulla. Sì. Tieni presente però che è comunque i freni delle vetture di oggi sono molto efficaci, quindi l'aiutarsi per diciamo risparmiare le pastiglie dei freni può essere un'idea, ma non certo per andare incontro a aiutare i freni a frenare. Ecco. Certo, certo, decisamente. Detto questo, poi, secondo capitolo, quindi ragionare, filosofia di guida, guardare lontano. Secondo capitolo, Roberto. Secondo capitolo, mantenere bene la macchina. Sì. E quindi in particolare, per esempio, controllare, lo diciamo sempre, lo diciamo da tanti anni, ma anche guardandosi in giro vedo che comunque non tutti lo fanno, anzi pochi lo fanno. Controllare la pressione dei pneumatici regolarmente, sì. Perché un pneumatico sgonfio assorbe più energia per rotolare e questo si traduce automaticamente in un aumento del consumo. Mi piace sempre la metafora della bicicletta con la ruota sgonfia. Avete presente quanta fatica fate per farla pedalare? Ecco, quella è la fatica che fa la nostra vettura e quindi il nostro portafoglio per farla andare. C'è tempo per un ultimo consiglio, Roberto? Ma l'ultimo consiglio è andare piano, sembra una battuta, però ovviamente è la cosa più naturale che viene in mente. Tieni presente che passando da 130 a 110 in autostrada il consumo può ridursi anche del 30%, dipende chiaramente però, dal modello, da come è fatta la vettura e così certo. via, però naturalmente il consumo dipende fortemente dalla velocità che si tiene, quindi una riduzione della velocità fa bene al consumo. In questo credo sia bello conoscere la propria auto, capire qual è il regime di giri a cui consuma di più e quello invece sotto il quale c'è un ottimo consumo. Se poi aggiungiamo i discorsi sull'aria condizionata, ora che arriva estate, certo. Non finiamo più di dire, insomma, usiamo la testa. Quella dell'aria condizionata è una rinuncia che magari uno dice, ho questo comfort certo. E mi piace usarla, è giusto che sia così. Però appunto, magari ecco... Però quando vedo l'aria condizionata e i finestrini bassi, allora a quel punto mi viene da ridere, capisci? Ah. Ok, Roberto Boni. Grazie anche per le notizie sull'allegato Emissioni Zero. A prestissimo e buona serata. Altrettanto a voi, a presto. Quattro ruote e dintorni. Dunque, dicevamo un argomento, mi auguro, interessante. Io stesso, dopo anni nel campo dei motori, ho scoperto delle cose su questo tema che oggettivamente non è facile da spiegare. Allora, lo facciamo grazie ad un esperto, che si occupa tutti i giorni anche di queste cose, ed è Cosimo Muriani. Buonasera, Cosimo. Buonasera a te, Roberto, e a tutti gli ascoltatori. Dunque, il tema che mi avevi proposto, perché pensavi fosse utile, e ritengo anch'io che così sia per gli ascoltatori, è quello di una trasformazione dell'Euro 5 Ready, cioè pronta per essere Euro 5, in Euro 5. Io ho voluto fare un passo indietro, perdonami Cosimo, ma credo sia necessario spiegare agli ascoltatori. Parliamo intanto di Euro 4 e Euro 5, sono due omologazioni ben diverse e tanto c'è una data in primo piano, oltre la quale succede qualche cosa. La faccio dire tutto a te. Certo, stiamo assistendo al passaggio da una norma antinquinamento a un'altra. In pratica si passa dalla norma Euro 4, che aveva determinati parametri in quanto a emissioni inquinanti, a una norma più restrittiva, la Euro 5, cioè automobili più pulite, che emettono meno emissioni nell'aria. E questo obbligo esiste per tutte le auto di nuova omologazione a partire dal settembre di quest'anno, cioè da settembre del 2009. Quindi che cosa succederà? Da settembre 2009 tutte le automobili dovranno necessariamente essere omologate Euro 5. Ecco, attenzione, perché io fin qui un po' superficialmente ti ho detto benissimo, quindi non sarà possibile comprare più Euro 4 da settembre, e invece questo è un errore. Però credo che sia un errore, diciamo, comune, e quindi lo spieghiamo. Cosimo ha detto, sì. Dal 1 settembre 2009 non sarà più possibile comprare auto omologate Euro 4. Non sarà più possibile per le case per omologare le case, auto Euro 4, dovranno essere tutte Euro 5. Ecco, però per le case, perché c'è differenza fra l'omologazione Euro 5 e l'immatricolazione certo. Euro 4, Euro 5. Ci certo. spieghi questa differenza in modo che la capiamo, Cosimo? L'omologazione è quell'insieme di norme a cui deve sottostare un veicolo prima di essere messo su strada, no? Quindi sì. Un'auto nuova appena sviluppata deve essere, poter essere omologata in base alle normative europee. L'immatricolazione invece sono tutte le vetture omologate che poi vengono immatricolate a chi le compra, al cliente finale. Quindi tutte da settembre 2009 le case dovranno omologare necessariamente delle vetture Euro 5. Il cliente finale invece potrà continuare a comprare vetture omologate Euro 4. Ecco, fino a quando? Fino a quando? Fino al dicembre 2010. Perché questo? Perché a gennaio 2011 scatterà l'obbligo di immatricolare, quindi acquistare solo vetture Euro 5. Ecco quindi le due scadenze. Dal 1 settembre 2009 ogni casa costruttrice che inventa, detto banalmente, un'auto dovrà omologarla Euro 5. Noi invece automobilisti che vogliamo cambiare l'auto possiamo comprarla Euro 4, quindi immatricolarla Euro 4 fino, attenzione, al dicembre 2010. Dopodiché non sarà più possibile. E allora adesso giungiamo ai consigli da dare per non essere, tra virgolette, fregati nei concessionari disonesti. Certamente è sempre opportuno acquistare un'automobile che risponda alle ultimissime norme in materia di inquinamento e quindi una Euro 5. Ciò non toglie che in alcuni casi potrebbe ancora essere conveniente acquistare un Euro 4, perché noi presumiamo che a ridosso del dicembre del 2010 tutte le rimanenze nelle concessionarie saranno date via a prezzo di saldo, perché poi non sarà più possibile immatricolarle. A chi possiamo consigliare di acquistare un'autovettura ancora Euro 4? Beh, certamente chi non abita nei grandi centri sottoposti alle restrizioni del traffico, perché il punto dolente è questo: un'autovettura Euro 4 nel tempo è facile che possa essere fermata dalle amministrazioni locali quando determinati valori di inquinamento superano la soglia d'allarme. E quindi è sempre meglio avere un'auto che risponde alle ultimissime norme in vigore. Però chi abita in un paese di provincia, chi abita in comuni che non sono sottoposti di solito a restrizioni sul traffico, può tranquillamente acquistare un Euro 4 e continuare a circolare, perché nella sua zona non ci sono restrizioni. È chiaro. Ultima cosa, Cosimo, ti chiedo di invece riassumere l'esperimento che avete fatto. Molte auto sono Euro 5 ready, cioè già pronte per l'Euro 5, e voi avete trasformato un Euro 5 ready in Euro 5. Si può, non si può, come si fa? In sostanza il nostro esperimento è partito da una pubblicità Fiat in cui si vendeva la Bravo Turbo Diesel Euro 5 Ready. Sì. Che cosa è successo? In sostanza la Fiat ha giocato d'anticipo, cioè ha sviluppato la Bravo e omologato la Bravo Euro 4 pur sapendo che il motore sarebbe già stato in grado di soddisfare la successiva norma, cioè l'Euro 5. Quindi la vettura è stata omologata dalla Fiat come Euro 4, però siccome il motore era banalmente già moderno, la macchina sarebbe stata in grado successivamente di rispondere alle normative più restrittive. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Ci siamo recati in una concessionaria Fiat, abbiamo chiesto alla casa costruttrice il nulla osta per poter trasformare la vettura. Una volta ottenuto il nulla osta dalla casa costruttrice, abbiamo fatto effettuare una modifica alla centralina di gestione del motore della Bravo. In sostanza è stato riscritto il software che governa tutte le funzioni del motore dell'automobile. Con questa operazione con la posizione di una nuova targhetta sulla centralina, l'autovettura è diventata a tutti gli effetti un Euro 5. Una volta ottenuto dalla concessionaria la certificazione dell'intervento effettuato, ci siamo recati alla motorizzazione dove abbiamo sottoposto tutte le carte, tutti i documenti, pagato i nostri bollettini postali e ci è stato rilasciato un permesso di circolazione provvisorio, perché verrà ristampato un nuovo libretto di circolazione, una nuova carta di circolazione, su cui finalmente comparirà la dicitura Euro 5. Euro 5, quello sarà importante. Abbiamo sancito il passaggio da Euro 4 a Euro 5 a tutti gli effetti anche di omologazione. È chiaro, sarà importante anche per dimostrarlo eventuali contestazioni della polizia in futuro. Grazie davvero per ora Cosimo Muriani, buona serata Cosimo. Buona serata a te e a tutti gli ascoltatori, grazie. Chiudiamo la trasmissione dopo Muriani con l'avvocato Erika Lievore da Milano, buonasera avvocato. Grazie, buonasera a lei, ascoltatori. Il suo 18° intervento ci sta insegnando il codice della strada, l'avvocato Lievore, e allora lo facciamo sempre partendo da uno di voi che scrive alla nostra email 4ruote@radio24.it. Avvocato, 2 giorni fa le ho passato questo tema davvero spinoso dell'eccesso di velocità, arrivano tantissime segnalazioni per lei. Abbiamo scelto quella invece di Marco, che ci scrive da Roma, il quale le dice: nel mese di dicembre 2008 ho regolarmente pagato la sanzione per una una violazione al codice della strada, era un eccesso di velocità, accertata dalla Polizia Municipale. Se non che a maggio 2009, adesso, proprio i primi di maggio, dopo 4 mesi e mezzo, mi è stata notificata un'ulteriore violazione, 278 euro, proveniente dalla stessa Polizia Municipale, in quanto avevo omesso di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni, come era intimato nel verbale notificato a dicembre. Che cosa posso fare, avvocato? Partiamo dall'articolo 126 bis, che riguarda proprio la patente a punti. Questa norma prevede infatti che all'atto del rilascio della patente venga attribuito un punteggio di 20 punti che viene poi annotato all'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida. Questo punteggio subisce di conseguenza delle decurtazioni a seguito della comunicazione a questa anagrafe della violazione del codice della strada, per le quali è prevista una decurtazione secondo un'apposita tabella o comunque prevede la sospensione della patente. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni, possono essere decurtati un massimo di 15 punti, eccetto quando si parla ovviamente di sospensione o revoca della patente. E allora il nostro ascoltatore Marco che cosa può fare a questo punto? Vi ricordo, ha pagato una multa per eccesso di velocità, dopo 4 mesi e mezzo gliene è arrivata un'altra perché non aveva detto alla polizia chi guidava in quel momento il veicolo, non aveva dato i dati. Allora, il comma 2 dell'articolo 126 bis prevede che entro 30 giorni dal pagamento della multa o dalla decorrenza dei termini previsti per eventualmente proporre ricorso, l'organo che ha accertato la violazione ne dà notizia all'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida. E così, in caso di mancata identificazione del soggetto responsabile della violazione, come avviene appunto per il nostro ascoltatore, sarà il proprietario del veicolo che dovrà fornire entro 60 giorni dalla notifica del verbale sia i dati personali che quelli della patente del conducente al momento della violazione. Il proprietario del veicolo che omette senza giustificato motivo di comunicare questi dati è soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 1000 euro di multa. E ricordiamo a questo punto che nel 2005 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui disponeva che in caso di mancata identificazione del conducente del veicolo la decurtazione dei punti doveva essere effettuata automaticamente a carico del proprietario del veicolo, salvo che questi poi non comunicasse altri dati entro 30 giorni. Certo, allora chiudiamo dicendo come avviene questa comunicazione. Allora, o recandosi personalmente presso il comando di polizia negli orari prestabiliti, oppure a mezzo di una raccomandata utilizzando il modulo allegato, compilato, firmato e corredato con la fotocopia di tutti i documenti di identificazione in corso di validità. E il nostro ascoltatore, quindi, possiamo dire che a questo punto non potrà fare altro che pagare la sanzione amministrativa, in quanto ogni ricorso verrebbe difficilmente accolto. E mi piace ricordare, avvocato, che chi invece ha una buona condotta, quindi a chi non viene mai decurtato nessun punto durante l'anno, acquista in omaggio 2 punti fino ad un massimo di 30 punti. Per sapere quanti punti avete, penna e carta, perché fra pochi secondi vi do un numero di telefono. Avvocato Lievore, grazie di cuore, a presto e buona serata. Buona serata a lei, ascoltatori, grazie. Vi ricordo intanto l'indirizzo email a cui scrivere: 4ruote@radio24.it. Il numero di telefono è 848 782 782. Ve lo ripeto: 848 782 782. C'è una voce guida, vi chiede il numero della vostra patente senza la lettera iniziale e vi dice quanti punti avete. Buona scoperta, anche per me è stata una sorpresa. Allora, grazie per l'ascolto. Radio24.it, nella sezione programmi, 4 ruote d'intorno, avete la trasmissione di oggi più la rubrica weekend su 4 ruote. Ci tengo molto al vostro commento, scrivete pure a 4ruote@radio24.it. Giacomo è rimasto in regia con me, grazie Giacomo, a presto da Roberto Rasia, soprattutto una buona guida a tutti.